Va bene, allora a tutti buon pomeriggio, un orario un po' inusitato per il centro, ma buono secondo me per le presentazioni dei libri. E quello che vedete alle mie spalle è il programma di queste due settimane, tre, che noi dedichiamo al ricordo di Primo Moroni, in un intorno dell'anniversario della sua morte che è stata nel 31 di marzo del 1998. Come vedete, è abbastanza, gli argomenti, come dire, toccano un sacco di questioni centrali di questi tempi. In realtà questi sono tempi in cui incappare in delle questioni non centrali è un po' difficile, e quindi non c'è stato molto complicato costruire questo calendario. Passo velocemente all'introduzione della presentazione di questa sera, ringraziando Gianni Barbacetto di essere qua per presentare il suo libro Contro Milano, di cui parlerà diffusamente. Volevo spendere due parole di premessa, un pochino di contesto che mi sembra che valga la pena. L'urbanistica è una rappresentazione vivente della storia delle contraddizioni. È una sorta di cartina di tornasole di ciò che le succede attorno. È uno strumento che può essere utile per leggere e per ciò che avviene o ciò che è avvenuto. L'urbanistica di Milano in questo senso è paradigmatica. Milano è una città che ha avuto una certa rilevanza, è la città del rito ambrosiano, nel libro si dice. Il rito ambrosiano non è solo una cosa di chiesa, ma anche una cosa di casa, e questo Gianni forse lo potrà spiegare meglio dopo. Però non è un'invenzione tua, è un termine usato anche come casa, non solo come chiesa. Quello che volevo dire è questo, per arrivare al libro. Milano ha avuto nel corso del tempo una grossa urbanizzazione che era legata alla sua vocazione industriale. La Pirelli fa i primi stabilimenti alla fine dell'Ottocento. All'inizio del Novecento viene costituito l'Istituto Case Popolari, che insieme alla società umanitaria costruiscono le prime case, come dire, a gestione ufficiale, pubblica, diciamo, da parte di quella, l'ufficio d'affari della borghesia, dove ospitare gli operai che andranno o che vanno a lavorare in queste fabbriche. Nel 1923 la città cresce e assorbe i comuni di Baggio, Treno, Afori, Niguarda, Greco, Lambrate e Crescenzago, una sorta di operazione come la città metropolitana. Dalla fine dell'Ottocento agli anni Venti passa da 300.000 a 700.000 abitanti e vengono costruiti 8 quartieri per le case popolari. Nel 1924 arriva il fascismo. Il fascismo usa nelle città grosse, lo farà con Milano, lo farà con Roma, la politica del piccone. Cioè, un pochino ricorda quello, la ruspa di qualcun altro, diciamo così, ma comunque l'idea è quella di tirare giù tutto ciò che non serve o che potrebbe creare dei problemi e dare fastidio. Fatto sta che il centro, soprattutto della città di Milano, viene sventrato. Che fare? Perché il centro della città di Milano era abitato, naturalmente viene ricostruito, ma coloro che ci stavano prima devono essere allontanate. Vengono così costruite, io ho qualche... Mi sembra che sto andando velocissimo, non ti preoccupare, ma volevo foto che poteva... Vengono costruite le case minime che dovrebbero essere una cosa provvisoria e che in realtà dureranno diverse decine di anni. Peccato che non lo trovo, vabbè, poco male. Ecco, le case minime sono qua. No, per dare un'idea, ecco qua, questo è... il senso dell'edilizia fascista per chi viene deportato, sostanzialmente allontanato dal centro della città, minime di nome e di fatto. Va bene, andiamo al dopoguerra. Nel 1953 c'è dopoguerra inizia la ripresa, inizia una nuova fase di industrializzazione e arrivano a Milano centinaia di migliaia di immigrati che sono le braccia che lavoreranno per le grandi fabbriche. E da lì abbiamo il quartiere di Gratosoglio, 52 edifici di 9 piani per 21.000 alloggi, 8 torri di 16 piani, le torri bianche che ci sono ancora oggi. Abbiamo il quartiere di Quartogiaro, abbiamo il Gallaratese, che viene costruito in realtà tra il 1960 e il 1980, destinato a ospitare 80.000 persone. Abbiamo le Coree, che sono quei quartieri un po' ai margini della città dove gli immigrati si costruiscono baracche, case, non avendo a disposizione questa edilizia urbana, e dove andare ad abitare, insomma, per abitare là. Nel 1974, e vi faccio vedere questo, se si vede qua, ecco, questo qua è il grafico della popolazione residente. Nel 1900, vedete che dal 1880 è in continua crescita. Nel 1974 c'è il picco più alto, 1.700.000 abitanti circa. A partire dagli anni 80, vuoi per la crisi, vuoi per la, come si dire, questa incombente tendenza a delocalizzare e globalizzare, vuoi per gli effetti delle lotte sociali degli anni 70, ora parlare di tutto ciò sarebbe abbastanza complicato, i grossi poli industriali iniziano a chiudere, lasciando il posto a delle attività più piccole, più flessibili, si direbbe oggi. Il cambio però non è sufficiente ad assorbire tutta la popolazione operaia, che rimane esclusa, e quindi risulta una perdita di circa 200.000 posti di lavoro, cioè nel corso degli anni 80 e inizio degli anni 90. Negli anni 90 arriva la finanza, gli investimenti, la curva continua a scendere, la curva dei residenti, perché la popolazione, non avendo poi da lavorare, quel tipo di popolazione se ne va, e quindi nel 94 definitivamente chiude l'OM, la Maserati di Via Rubattino nel 96, la Falck di Sesto nel 96 e definitivamente, dopo una serie di passaggi, nel 2005 l'Alfa di Arese. Quindi la città che era, non è più, va bene, questo potrebbe essere un dato acquisito, nessuno si stupisce né, come dire, è un'esperienza che si vede, diciamo, con gli occhi, risulta, salta agli occhi, però qual è il rapporto che c'è questo con l'urbanizzazione? È che per lungo tempo la storia urbanistica di Milano è stata guidata dalla necessità di ospitare delle persone che dovevano venire per produrre valore in un altro modo. È stata guidata sostanzialmente dalla produzione e la sua struttura urbana corrisponde a questa necessità. È una struttura classista, non, niente si salva dalle morsa del capitalismo, quindi non è che si può dire era meglio o era peggio, però era fortemente connotata su questo aspetto. Anni di crisi arriva e alla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, inizia il processo di quella che si chiama la rigenerazione urbana. La Pirelli, che ho citato all'inizio, che aveva aperto alla fine dell'Ottocento, adesso fa l'immobiliare, faceva gomma e adesso si occupa, per dire qual è stata il giro, la capovolta che tutta questa storia ha fatto. Va bene, il libro di Gianni parla di questo pezzo di città nuova, che è una città che in qualche modo è lei a guidare l'ingresso di persone, non è guidata, la cui urbanistica è, io direi, ora poi tu mi puoi smentire se vuoi, e vive su delle regole diverse da quelle che erano l'urbanistica di prima. Ripeto, e con questo chiudo, non c'è nessuna forma di passatismo, di nostalgia. E la speculazione c'è sempre stata, Non è che un tempo le cose andavano diversamente da quello che succede oggi. Però allora c'era una risposta ad una domanda che era altra. In questo momento io dico che è come se ci sia una domanda che si autogenera. La fiera campionaria è in crisi, giusto? E si arriva Albertini 2, City Life. Ti passo la parola. Io sono... Funziona? Sì, mi sento. No, forse no. Aspetta che la... Sia... Sì. Va? Funziona? Sì. Okay. Eccolo lì. No, io sono particolarmente contento di questo invito perché penso qui si possa fare un ragionamento sul potere. L'urbanistica è il potere nelle città. Il potere delle città lo è sempre stato, oggi c'è da ragionare su una novità, però c'è qualche cosa che è successo qui a Milano e che si presenta come modello per tutta Italia, per cui capire i processi del potere qui a Milano potrebbe essere utile per capire che cosa sta succedendo anche e che cosa potrà succedere negli anni prossimi anche nel resto del paese. Allora, chi mi ha preceduto ha raccontato come l'urbanistica, la crescita di Milano negli decenni fino ai decenni diciamo, del Novecento è stata dettata dalle leggi dell'industrializzazione sostanzialmente. Cioè, bisognava allargare la città per dare spazio alla nuova forza lavoro che arrivava prevalentemente dal sud. I miei genitori arrivavano dal Friuli, ma insomma eravamo i terroni del nord, che arrivavano a Milano perché a Milano c'erano le fabbriche, a Milano c'era il lavoro, quindi dal dopoguerra in poi quella era la strada che è stata seguita anche dallo sviluppo urbano delle grandi città, soprattutto di quella città che era diciamo, il perno dell'industrializzazione del nord, cioè Milano. Il libro però Contro Milano si occupa di un'altra cosa, cioè con la fine del Novecento e con la fine della prevalenza dell'industria in città si è aperta l'era della finanziarizzazione, della finanziarizzazione e del predominio della rendita. Non è più l'industria a guidare lo sviluppo, ma è la rendita a guidare uno sviluppo che non è sviluppo, perché la rendita mangia se stessa, è come una miniera che in cui arrivano da tutto il mondo i fondi immobiliari ad estrarre valore e poi quando la vena si esaurisce, perché il territorio si esaurisce, prendono e se ne vanno da un'altra parte. Quindi è un modello di crescita che in realtà è un modello rapace, ma rapace perché non produce futuro. In fondo la Milano industriale produceva futuro per esempio per chi come me, figlio di un operaio, è riuscito ad andare all'università e a prendere quello che una volta veniva chiamato l'ascensore sociale. Oggi questo non c'è più, l'ascensore sociale è bloccato, c'è soltanto la finanza a guidare lo sviluppo, uno sviluppo appunto che io ritengo non sviluppo, ma attività predatoria sulla città. È vero, il rito ambrosiano, la parola rito ambrosiano è stata coniata dagli urbanisti negli anni 50 quando stava ad indicare i permessi che il Comune di Milano dava ai costruttori in precario, cioè vi lasciamo costruire fuori dalle regole del piano regolatore, in precario, perché poi vedremo se il piano regolatore prossimo renderà legittimo quello che è stato costruito. Naturalmente il piano regolatore successivo è stato costruito esattamente su misura per regolarizzare le costruzioni in precario. Io oggi parlo di nuovo rito ambrosiano, cioè finita l'era della Milano industriale, l'ideona delle giunte, di quattro giunte in continuità, due di centrodestra, Albertini, Letizia Moratti, e due di centrosinistra, Giuliano Pisapia e Giuseppe Sala, sono state quella della attrattività. Cioè noi attiriamo qui da tutto il mondo capitali immobiliari in tutti i modi, e questo sarà il modello di sviluppo che renderà ricca Milano, che non ha più le fabbriche come centro dello sviluppo. Milano è, questo modello ha funzionato, perché Milano è la prima città in Europa per investimenti immobiliari. Prima Milano, seconda Monaco di Baviera, terza Amsterdam. Quindi il modello ha funzionato, hanno raggiunto l'obiettivo. Il problema è quanto è rimasto alla città delle decine di miliardi di euro che sono arrivati dai fondi immobiliari dall'Italia e da tutto il mondo. Prendiamo la seconda in questa classifica, Monaco di Baviera. Gli operatori che vanno a costruire a Monaco di Baviera devono restituire alla città il 30% del valore che estraggono in servizi verde. Ecco, Monaco di Baviera non è Cuba, non è il socialismo, però i cittadini hanno almeno qualcosa, no? in case affitti, case popolari ormai non si fanno più, ma insomma almeno case ad affitti un pochino calmierati. A Milano, di fronte al 30% della seconda in classifica, Monaco di Baviera, a Milano solo l'8%. In questo già si capisce che c'è una anomalia, una particolarità, una individualità del modello di sviluppo di Milano che deve trovare correttivi, perché certo si può dire che il capitalismo è questo e quindi però io non vorrei che a volte questo discorso sia consolatorio, cioè siccome tanto non possiamo farci niente perché il capitalismo non riusciamo ad abbatterlo da qui ai prossimi 3 anni, allora va bene così. No, perché il capitalismo c'è anche a Monaco di Baviera, ma a Monaco di Baviera i cittadini hanno il 30% del valore estratto dal capitale finanziario immobiliare che arriva lì per fare affari. A Milano l'8%. Allora c'è una distorsione su cui si può e si deve lavorare. E io vorrei che, cioè mi piacerebbe, se avessi qualche anno in meno, mi piacerebbe che a Milano nascesse una specie di movimento no-TAV che blocca i cantieri, che interviene in maniera anche dura e radicale contro un modello di sviluppo che non funziona, che non va, che rischia di veramente predare, no? Come la metafora della miniera a me sembra corretta, no? Chi produce delle cose e le vende dentro un modello che è quello dello sfruttamento capitalistico, ma produce delle cose. Chi viene a costruire grattacieli a Milano produce grattacieli, ma che poi vengono finanziarizzati, non servono neanche all'abitare. Non importa che siano abitati o meno, importa che siano una posta in un bilancio di una banca. Quello è il loro valore. È pura finanza. Che poi ci abiti qualcuno o meno è secondario. Allora, io penso che ci sia ci sia stata una colpevole disattenzione a quello che stava succedendo negli ultimi almeno 20 anni. È successa una cosa fondamentale, grave, una rottura, proprio un cambio di passo nel modello di sviluppo della città che la sinistra, neanche la sinistra più radicale, ha visto. Cioè, questi processi non sono stati osservati, calcolati, criticati neanche dalla sinistra, diciamo dagli esponenti della sinistra più radicale. Non dico gli intellettuali, il Politecnico o le università milanesi, che fino agli anni 80-90 producevano pensiero critico. C'erano intellettuali che ragionavano in maniera critica sulla città. Oggi il Politecnico è diventato spesso, in gran parte, un'istituzione in cui i professori lavorano a contratto, in cui i privati sono dentro l'università, anche quella pubblica, lavorano, danno incarichi ai professori e quindi hanno di fatto chiuso la possibilità di un pensiero critico sulla città. Ecco, questo ha permesso a questo modello di sviluppo di arrivare ai risultati paradossali di oggi. Perché come si fa a rendere attrattiva una città? In due modi: abbassando i costi, gli oneri di urbanizzazione, e Milano è la città con gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa. Cioè, qui venire a costruire qui per un fondo internazionale è molto remunerativo, perché qua è quasi gratis. Due, secondo motivo, cioè quindi meno soldi per costruire e meno regole. Qui si sono inventati appunto quello che io chiamo il nuovo rito ambrosiano. Non è più la costruzione in precario, non è più neanche il rito ambrosiano di Ligresti, che costruiva sulle varianti, che costruiva poi, diciamo, con quello che poi è stato chiamato Tangentopoli, cioè io ti do la tangente, tu mi trasformi in edificabile la mia area che avevo comprato come area agricola. Quindi in una notte il valore di 10 diventava 1 milione, no? Perché l'area agricola diventava edificabile. Quella era il vecchio rito ambrosiano. Oggi le regole sono state fatte appunto sulla misura di Milano, per cui se tu abbatti un laboratorio in un cortile e al posto di quel laboratorio ci costruisci un grattacielo di 24 piani, è il caso della Torre Milano, non è un caso inventato, questa è ristrutturazione tecnicamente, quindi paghi il 40% in meno di oneri e hai profitti immensi e non devi fare un piano attuativo, cioè non devi dare il piano. Cos'è il piano attuativo? È quella cosa per cui tu devi dare ai cittadini che arrivano, ai nuovi cittadini, se tu calcoli che in un grattacielo ci sono 200 famiglie nuove che arrivano, devi calcolare i servizi per quelle 200 famiglie, quindi parcheggi, verde, allaccio alle fognature, asilo nido, niente, è ristrutturazione. Quindi no, si fa come voi provate ad abbattere un tramezzo a casa vostra e ci mettete due anni ad avere i permessi del comune. Invece, se dovete costruire un grattacielo di 24 piani dentro un cortile, lo potete fare come ristrutturazione. Questo è il rito ambrosiano. E questo è, si è talmente insediato nell'uso comune, diciamo, degli operatori immobiliari, dei politici, degli amministratori di questa città, che è diventato normale. Tanto è vero che quando dopo che ci sono state delle segnalazioni e degli esposti da parte di comitati dei cittadini alla Procura di Milano, e la Procura di Milano per la prima volta ha aperto delle inchieste andando a vedere le leggi, e le leggi erano state evidentemente contraddette, e tutti a dire no, no, questo è normale, a Milano facciamo così da 10 anni, da 15 anni, è vero, a Milano si fa così da 10 anni, da 15 anni, e la pretesa del sindaco è stata: non voglio un condono, perché è carina la storia della Salva Milano, che tutti ormai abbiamo imparato almeno come nome a conoscere, è meravigliosa. La Salva Milano doveva essere la legge che sanava questa strana situazione per cui la Procura della Repubblica indagava una 20ina di cantieri, ma diciamo le costruzioni simili sono almeno 150 in città, e poi chissà mai anche di più, perché tutto è stato costruito negli ultimi 15 anni fuori dalle regole. E allora la prima Salva Milano, voluta da Matteo Salvini, era: facciamo una legge che dice tutto ciò che è stato costruito a Milano e con queste caratteristiche fino al giorno X lo riteniamo conforme alle norme. Questa era una sanatoria, un condono che fa orrore, ma era un onesto condono di destra. Il sindaco ha detto no, non posso accettare una cosa così, perché se accetto questa cosa devo accettare di confessare che ho fatto costruire fuori dalle regole. No, non voglio il condono, voglio una norma di interpretazione autentica. Che cos'è la norma di interpretazione autentica? È una norma che dice: le leggi urbanistiche ed edilizie sono quelle che sono state seguite a Milano. Quindi quello che è fatto, il modo di costruire, di edificare a Milano diventa legge, quindi non è una sanatoria solo per il passato, ma diventa una legge anche per il futuro e anche per tutta Italia, perché non è che puoi fare una legge solo per Milano. Ecco, quindi la Salva Milano è la più grande porcata che io ho mai visto nella mia carriera, cioè prendere dei reati, in questo caso dei reati urbanistici, e renderli legge per sempre e per tutta Italia. Questa è stata la pretesa del sindaco come risposta ad una sanatoria, ad un condono che la destra invece gli aveva gentilmente proposto. La Salva Milano è passata alla Camera e poi è stata bloccata al Senato, e adesso è ancora lì, però ritengo complicato insomma farla passare. Io credo che abbiamo avuto qualche merito, cioè il fatto che dopo il voto alla Camera si sia riaperto il dibattito pubblico sulle questioni urbanistiche, che sono questioni poco sexy, diciamo la verità, no? Cioè parlare degli ape a Milano è cool, è glam, parlare di urbanistica, leggi, ristrutturazione, eccetera, cubature, eccetera, è poco sexy e quindi è complicato anche da spiegare alla gente. Però ne va della nostra vita, cioè la nostra qualità della vita. Se tu hai una casa e ti costruiscono di fronte alla finestra un grattacielo che ti toglie luce, sole, aria, è la tua qualità della vita che peggiora. E quindi io, quando il sindaco dice adesso dobbiamo trovare la soluzione per i 1600 che hanno pagato le case, adesso non si sa se riusciranno a entrare, a parte il fatto che non riesco a capire, hanno sequestrato due case finite, Quindi come fanno a essere 1600 non riesco a capirlo, saranno 200 te massimo, e poi hanno le assicurazioni, hanno le fideiussioni bancarie, hanno le garanzie anche degli stessi magistrati che hanno detto non dobbiamo danneggiare gli incolpevoli acquirenti, quindi quella è una scusa, cioè si stanno facendo scudo umano di chi ha costruito, di chi ha comperato i grattacieli che la procura ritiene essere abusivi, per sanare una posizione che è politica e che è la dimostrazione di un fallimento, cioè del fatto che a Milano si è costruito fuori dalle regole. Io credo che dobbiamo stare all'occhio, perché se la Salva Milano l'abbiamo scampata, ripeto, se, perché ancora è lì pendente, anche pendente perché era, diciamo, complicato per il PD votare, come ha fatto alla Camera, votarla anche al Senato, dopo che era venuta fuori una cosa, diciamo, molto comprensibile a tutti, e cioè l'ingresso nelle inchieste non soltanto dell'abuso edilizio, che è complicato da spiegare alla gente, ma della corruzione, cioè c'è un indagato per corruzione. Oggi lo leggerete sui giornali di Milano, arriva anche il reato di concussione in questa inchiesta, quindi diciamo la Mani Pulite dei grattacieli sta cominciando a fare dei salti in avanti, perché appunto non si è cominciato dagli abusi edilizi, è arrivata il primo reato di corruzione, adesso c'è da oggi il primo reato contestato, per carità, poi si vedrà il processo, eccetera, il primo anche di concussione. Quindi reati gravi, reati. Però, ripeto, corruzione e concussione sono i reati che naturalmente germogliano su un sistema. La vera stortura non è la corruzione, paradossalmente, ma è il sistema, cioè è il fatto che qua si possa, che a Milano si possa costruire fuori dalle regole, e che si pretenda che queste regole seguite a Milano diventino regole per tutta Italia. Ecco, questo credo che sia la vera cosa, con il pericolo vero che resta in Parlamento, e cioè che in Parlamento, oltre ai vari tentativi Salva Milano, c'è anche una Salva Torino, ho scoperto, cioè un modo per sveltire le questioni anche a Torino, ma ci sono alcuni, più di uno, progetti di ridefinizione delle regole urbanistiche per tutta l'Italia, cioè riscrivere le regole per costruire in Italia. Quella sarà l'occasione con cui si tenteranno di far rientrare le porcate della Salva Milano, non come sanatoria per il passato, ma come legge per il futuro. Quindi dovremo stare molto, molto attenti a quello. Ripeto, è difficile da capire, è difficile da sentire, perché le questioni appunto degli abusi edilizi, dei grattacieli, sembrano cose astratte, lontane, poco concrete, però ne va intanto del sistema di potere di una città, e secondo ne va della vita dei cittadini, perché ripeto, costruire in un cortile significa togliere aria, luce, sole a chi ha la finestra davanti al grattacielo che sa, e dopodiché c'è una grande sostituzione etnica in questa città, perché questo sistema che cosa ha fatto, che cosa ha prodotto? Ha prodotto l'arrivo di 500.000 persone negli ultimi anni, l'ingresso, ma l'ingresso è contemporaneo alla fuga di 400.000 persone, quindi il saldo è positivo, ma arriva di non tanto, ma quelli che arrivano, arrivano da tutto il mondo, da tutta Italia, chiamiamoli in maniera sintetica, i ricchi, e se ne vanno i poveri, ma neanche tanto poveri, cioè il negoziante che è costretto a chiudere il suo negozio perché quando gli scade l'affitto glielo raddoppiano e non può più lavorare qui e quindi se ne deve andare fuori a Milano, l'impiegato, cioè c'è un cambiamento sociale della città. Milano diventa un paradiso fiscale dell'immobiliare, appunto, perché i fondi arrivano qua, costruiscono, niente regole, pochi soldi, e fa. Una Disneyland della rendita, dove si vive non producendo, ma riscuotendo gli affitti, sostanzialmente. Airbnb, chi c'ha una casa, perché dovrebbe, se uno ha ricevuto una casa da babbo, la trasforma in un Airbnb, perché mai dovrebbe cercare un lavoro o inventarsi un'attività? Per cui la Milano del fare e del sapere, la Milano creativa che è stata, dalla rendita è trasformata in un paradiso della rendita, appunto, in una sorta di miniera dove si arriva da fuori a portare via il valore immobiliare e poi si va da un'altra parte, quando la bolla scoppierà, perché prima o poi la bolla scoppierà. Ecco, poco sexy, però siccome è una questione, grande questione di potere e una grande questione anche di qualità della vita dei cittadini, io mi immagino, mi spero, ecco, che nasca un movimento notav di Milano, cioè un movimento per ridare la città ai cittadini, per fare che il pubblico e non il privato diventi il motore dello sviluppo di questa città. Secondo me si potrebbe fare, però appunto bisogna che scendano in campo i cittadini stessi. Grazie. Dico due cose, poi magari passiamo il microfono a chi vuole intervenire. Io non ho una grande fiducia nelle capacità taumaturgiche della magistratura e quindi preferisco considerare, di quello che tu dicevi, l'aspetto strutturale di quello che è successo. Credo peraltro che questa vicenda della corruzione che è uscita di recente sia una scappatoia fenomenale per Sala, perché lui può dire, lui ha detto, io i miei funzionari li ho sempre difesi, certo che se poi sono dei corrotti allora non posso farlo più, e quindi tutto il casino che gli ha girato attorno gli permette questa cosa di avere una scappatoia che se la sarebbe sognata solo qualche mese fa. Due cose vorrei dire ancora in aggiunta. Uno è che questa questione della pulizia, insomma del cambio della popolazione, ora non so come dire, è in atto da molto tempo, perché appunto la storia, questa storia qui inizia ai primi degli anni 2000, quindi è una storia vecchia, e già una grossa parte della popolazione proletaria è stata espulsa, o lo è, o è in corso di esserlo ora. Un po' per come dire, la tensione che la città ha nei loro confronti, un po' per la spasmodica crescita dei costi e di qualunque genere, perché in qualche modo ha un effetto inflattivo pazzesco questo arrivo dei turisti che stanno due giorni, dei grossi investitori che prendono a casa, quelli che ci mettono l'ufficio, quelli che si trasferiscono qua, mettono la residenza per non pagare le tasse, gli stranieri che vengono qua per non pagare le tasse, come un tempo gli italiani facevano col Portogallo o con la Bulgaria. E quindi in questo senso la pressione di allontanamento è molto grossa e la politica fa con questo cosa i conti con la città metropolitana, perché quello, i conti che prima venivano fatti sull'area comunale adesso vengono fatti sull'area metropolitana, quindi quella che è anche i conteggi che sono fatti sull'edilizia convenzionata non li fai più sul territorio comunale, ma li fai sull'intera cerchia dell'area metropolitana. Una volta che avevamo avuto un incontro con dei funzionari del Demanio per una questione, diciamo che è inutile per ora dire, loro hanno detto chiaramente che gli spazi pubblici che il comune mette a disposizione nell'area, nella periferia, cioè nella parte lunga dell'area metropolitana, sono per il sociale. Invece nella parte del comune sono messi a reddito, cioè non hanno, perdono il loro scopo sociale, che sarebbero quelli che erano i residui dei negozi, dove, delle case popolari e queste cose qua, no? Per cui in questo senso qua è in atto forte, questo bisognerebbe metterlo in conto. E l'altra cosa è, a me non piace la parola narrazione, però Milano se l'è cantata grossa, cioè ci sono state dette una serie di balle colossali su questa città, e forse parte, diciamo, ci ha avuto seguito, qualcuno ci ha creduto, è stato così l'Expo, è stato così appunto City Life per esempio, sono così una serie di iniziative grottesche che questa città ha fatto nel corso del tempo, e che delle prese in giro, che però davano l'idea come se fosse effettivamente, e che avevano l'effetto, e per questo dicevo che si è invertita un pochino la situazione rispetto a quello, al periodo che descrivevo prima, di attirare gente, magari gente solvente. Però e il Politecnico, io ci credo che i professori del Politecnico non scrivono più, loro mangiano di questo. Il Politecnico è uno dei meccanismi di attrazione di persone ricche, giovani, figli di famiglie ricche, studenti stranieri o di altre città, che vengono perché è una delle università più prestigiose d'Italia, se non d'Europa, pagando delle rette altissime per dormire, e un sacco di soldi per mangiare anche al supermercato, cioè quindi anche facendo la spesa al supermercato. Quindi questo giochino è grosso. Ora può darsi, effettivamente qualcosa succede, che un pochino questa cosa si è incrinata, no? È come se incominciasse a cedere questa immagine così pattinata e a venir fuori ciò che c'è sotto, che c'è da molto tempo, ma che nessuno ha voluto vedere, e quelli che l'hanno vissuta se ne sono dovute andare, e nessuno gli ha dato retta. Questo libro è dedicato a Rami. Rami è l'esempio di questa cosa qua, cioè Rami è morto, ammazzato, morto dopo un inseguimento di chilometri ad altissima velocità per la città. La discussione adesso è se è stato toccato o non è stato toccato il motorino, è pazzesco, hai capito? Cioè tu insegui due ragazzi a velocità forsennata per la città, poi qualunque cosa succede questo cane, tu stai lì a vedere se no, è allucinante. E naturalmente lui è questa cosa, cioè uno che nessuno vede e uno che nessuno sa, no? Ed è quelli che ce ne devono andare, e se probabilmente questo, quindi è molto difficile, voglio dire, questa cosa qua tu è una, anche perché è un atto da molto, insomma molte cose mette dentro. Vabbè, basta, no. Prego, sì. Vieni qua magari, che così noi teniamo registrazione del... dove vuoi, qua? Allora, il problema della famosa scia, no? Di cui, attorno a cui si sviluppa il libro, in effetti si inserisce all'interno di un'urbanistica milanese che è molto più ampia. Per esempio, dalla dismissione delle case popolari, non solo l'abbandono fatto negli anni, ma la dismissione e il tentativo di darle a delle finanziarie. Per esempio le case popolari di via Lulli e via Porpora sono in fase di tentativo di abbandono cercare di darli all'Invimit, che è una finanziaria che chiaramente il cui scopo è fare soldi sostanzialmente, quindi vuol dire l'espulsione. E quindi non è solo un problema di scia, che tra l'altro per approvare una scia era molto semplice: da un notaio andava un rappresentante dell'urbanistica insieme a un rappresentante del proprietario e firmavano, non passava né per giunta né per comune, cioè era tutto fatto molto semplicemente. Oltretutto, la urbanizzazione è stata aumentata ultimamente, perché precedentemente erano al 3%, roba del genere. Solo ultimamente è stata portata all'8%, diversificato rispetto al centro più alto, rispetto alla periferia più bassa, come se al centro ci fosse ancora spazio per costruire. Cioè, quindi, vediamo com'è. Quindi il problema di fondo è tutto come viene affrontato l'urbanistica milanese e le case, no? Ultimamente, per esempio, è stata la vendita delle case del Trivulzio, no? Il Trivulzio viene controllato dal comune. Nel consiglio di amministrazione del Trivulzio la maggioranza l'ha il comune, non l'ha la regione, perché diventa sempre il solito meccanismo di dare responsabilità alla regione, no? Perché le cose non si possono fare. Quindi il problema dell'urbanistica milanese è un problema molto più ampio, che va oltre il discorso della scia. Questo chiaramente porta a un aumento, la scia ultimamente porta a un aumento dei prezzi spropositato, che gioca sul discorso degli eventi. In questi giorni c'è il Design Week e dal giornale c'è scritto che per una notte spendi anche 1200 euro per un appartamento. Cioè, vuol dire, almeno sui giornali, voglio dire. Ecco, quindi è proprio il tipo, iniziato da Expo, no? Il tipo di eventi che portano a chiamare interessi e persone di un certo tipo. L'evoluzione, quindi il cambiamento della struttura di classe sociale di Milano, è chiaro che è evidente, non solo perché sono finite le fabbriche, ma perché comunque anche quelle che sono la classe media o comunque i lavoratori a basso reddito o comunque i precari sono persone che devono essere cacciate, oltre a non essere viste, a non far vedere, perché chiaramente sul discorso delle zone rosse, che è un altro aspetto, no? Non devono essere visti, vengono sostanzialmente cacciate, però sono quelle che creano la ricchezza, che permettono a Milano di funzionare. Quindi queste persone aumentano la pendolarità, perché poi i trasporti è un altro problema, no? È un altro problema, perché poi queste persone vengono cacciate fuori, ma i trasporti non ci sono adeguati per portarli comunque in città. E quindi il problema dell'urbanistica, secondo me, è da vedere in modo molto ampio a Milano. La risposta della politica qual è stata? La risposta della politica non c'è stata, perché la politica ha fatto la scelta di favorire i potentati economici. Questa è la scelta, non è che sbagliano, voglio dire, è la scelta di fondo di favorire i potentati economici. E questo discorso è il tentativo, per esempio, ultimo, quando è stato l'ultimo assessore all'urbanistica, Bardelli è di Comunione e Liberazione, quindi è il tentativo di cooptare all'interno della struttura politica anche le forze che teoricamente sono in opposizione per poter fare un discorso comune. Bardelli poi non solo era di Comunione e Liberazione, ma è anche nello stesso ufficio della De Cesaris, quindi quelle particolari struttura di professionisti che più che con l'urbanistica si interessano della parte amministrativa, cioè di come poter far passare, no, alcune soluzioni urbanistiche. E poi Bardelli è stato chiaramente cacciato, e voglio dire, perché si era espresso in un certo modo. Quindi il problema è vero urbanista, ma il problema è politico, è un nostro problema politico, perché noi dice, beh, abbiamo sbagliato, c'è quello corrotto. È una scelta che questa classe politica, che comanda Milano, ha fatto la scelta di favorire i potentati economici. Questo è il problema. E non ci sono soluzioni o alternative, che quelle meglio. È una situazione di cosa più. Questo è il problema che ci troviamo, tenendo conto che ormai la campagna elettorale a Milano è già iniziata. Maiorino l'ho trovato ovunque, perché Maiorino è il responsabile PD per l'immigrazione, per la casa, e te lo trovi ovunque, da Rozzano, dove deve essere fatto il discorso della legge Caivano, perché deve essere applicata a Rozzano, il primo paese della Lombardia, sarà Rozzano dove dovrà fare la legge Caivano, no? Questo qui è un altro problema enorme, no? Tipo Quarticciolo, no? Voglio dire, no? Che già viene, eccetera. Quindi c'è questa collusione di interessi che poi può tradursi in corruzione o no, ma è secondario, voglio dire, in questo momento, dire che quello è corrotto, ha preso i soldi, allora ha preso la via sbagliata. No, è proprio una scelta di fondo di questa classe politica. Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Gianni, che questa finanziarizzazione della casa non riguarda solo le nuove costruzioni, ma anche il patrimonio già esistente, per collegarmi all'ultimo discorso. Io abito da 30 anni in una casa EMPAM. 2 anni fa arriva questa lettera di lasciare libero gli appartamenti da cose, da persone. Non capivamo chi è che ci convocava, perché questi fantomatici proprietari non avevano un nome. Scopriamo che l'EMPAM ha venduto a un fondo americano. tutto il patrimonio immobiliare italiano. E chi ci convocava era un SGR, cioè Società di Gestione e Risparmio, a Milano, Investire, che è uno dei più grossi partner di Sala e del Comune di Milano. Noi siamo usciti a bloccare il fatto che ci volevano mandare via e poi con una scia avrebbero praticamente fatto l'ira di Dio, mandateci via. E non è che ci ha aiutato una TAV o la sinistra, ci hanno aiutati i vecchi, perché hanno capito che la popolazione al 62% aveva 80 anni perché ci abitavano lì, e qualche avvocato deve avergli detto che sarà difficile avere 1200 sfratti di persone oltre 80 anni. Abbiamo fatto una trattativa, volevano vendere su prezzi di mercato, da 5.000 euro in poi a metro quadro anche i monolocali, e quando abbiamo rotto la trattativa, chi ci ha convocato? Maran, che sosteneva: dovete mettervi d'accordo, le parti si devono mettere d'accordo, perché la situazione della casa a Milano è grave, come se lui fosse l'assessore della casa di Canicattì, no, spiegava a noi che la situazione della casa è grave, va bene? E successivamente, quando si è chiusa la trattativa e siamo riusciti a comprare noi quelli che volevano comprare e a far rinnovare dei contratti solo per 5 anni a quelli che non hanno comprato, per tornare al tuo ragionamento, il 35% di quelli che hanno comprato le case non sono di Milano, vengono da fuori, società immobiliari, di tutto, il 35% dei miei proprietari di condomini non sono milanesi. E la conseguenza di questo non è soltanto il fatto di non riavere indietro il 30%, ma è che sparisce un quadro intermedio. La collego al mio lavoro. Io faccio l'insegnante. A scuola non troviamo più gli insegnanti temporanei. Cioè io che ho iniziato 40 anni fa a Milano facendo la supplenza di 15 giorni, di un mese, della maternità, non si trovano più. Cioè uno ha la supplenza per un anno o non viene. Perché chi deve venire per un mese si deve portare lui 5.000 euro per venire a vivere a Milano. Fino a 5 anni fa, se uno alle 6 di mattina andava sull'autostrada, vedeva questa fila di camion bergamaschi che erano i muratori che aggiustavano. Non reggono più, perché le aziende, tenere questi qui da lunedì al venerdì ad abitare, cioè quelli che prendevano per tenere gli operai, non conviene più. Adesso vedo che incominciano da Alessandra a venire questi, cioè imploderà, anche perché una serie di lavori intermedi spariranno, uno non ci viene più a stare a Milano, perché adesso un collegamento, quando noi su Expo abbiamo parlato di città vetrina, sta diventando vetrina, tu la puoi solo guardare, perché ad abitare non ci puoi abitare. Abbiamo fatto un'indagine presentando dei dossier quando abbiamo fatto la trattativa, abbiamo scoperto che noi eravamo gli unici, insieme ad altre 400 persone, che avevamo i contratti della 431, cioè quelli dei contratti concordati, perché a Milano c'erano 1900 contratti concordati di cui 1.426 eravamo dell'EMPAM. Quando abbiamo chiesto come mai a Roma, perché poi quelli di Roma si sono collegati a noi, c'erano 33.000 contratti concordati, Maran ha risposto: no, ci sono, li facciamo, ma nella città metropolitana, cioè te ne devi andare fuori Milano, perché quella che è considerata Milano non ci devono stare. La sostituzione etnica, che non è meglio sociale. È sociale, non usiamo termini che possono dire, la sostituzione sociale è quella, cioè tu te ne devi andare fuori, perché qua ci devono venire altri. Il processo coinvolge non soltanto i problemi edilizi o giudiziari, coinvolge proprio un cambiamento della struttura sociale, che è di espulsione totale di tutta una serie di fasce che a Milano sarà difficile che rimangano, insomma. A saperlo. Milano si mangia, eh? Milano è, si mangia. Potremmo andare avanti con la cosa. Allora, possiamo andare avanti con la cronaca di episodi, ma proviamo a raccogliere alcuni suggerimenti che il libro ci dà. È stato detto che fino al Novecento la città è il modello fordista, produttivo, il luogo in cui si concentrano le risorse, i produttori, i consumatori, e avviene attraverso fisicamente la merce. La trasformazione di Milano, è stato detto, invece è l'invenzione di una città altra, che è discontinua rispetto alla storia precedente del capitalismo e anche della classe, perché si esprime attraverso una valorizzazione generata da meri processi di finanza. Milano, quindi, intesa come modello di città, diventa un luogo in cui il valore viene prodotto con il ciclo che è stato descritto prima molto bene dal libro, e soprattutto diventa una città pay for use. È l'altro elemento che noi cogliamo in una maniera più facile con il bed and breakfast, ma anche con i soggiorni di studio, con le start-up, con il modo in cui tu esisti nella città. Tutto ciò che fai nella tua esistenza è sottoposto al pay for use. È un secondo modello di città in cui la forza lavoro che poi deve farla funzionare viene distribuita nell'area metropolitana. Non hai il diritto di risiedere nella città, perché la città è una città del merito in cui tu hai raggiunto un reddito che ti consente di rimanere in questa città per un arco di tempo. È stato citato Maran quando ha fatto quell'exchange di popolazione. Abbiamo mandato via 400.000 persone, ne sono arrivate 500.000 e sono quelle che dispongono del merito di avere reddito, perché questa nuova città è una città basata sul merito. Ecco perché chi perde il gaming della vita, la competizione della vita, e non consegue il risultato, chiude il negozio e se ne va, perde il lavoro e se ne va, e rientrerà poi come precario. E quindi questo modello di città è un modello universale, perché Milano poi evidenzia alcuni aspetti. Ha subito l'assalto ordoliberista, ad esempio, nella forma di ritrasformazione della città. Si era partito negli anni 70 con la cooperativa Centro Storico del Partito Socialista, che inizia la gentrificazione di Ticinese e Brera, che lui ha accennato prima Tommaso nella sua introduzione, e si arriva oggi invece a un modello in cui la città riassume il nuovo tipo di società, che è quella basata, ripeto, sul merito. Quindi è una competizione, e diventa cittadino chi ha il merito e quindi ha il diritto di abitare e di essere città. Gli altri, che non hanno il merito, stanno fuori dalla città. Il concetto di cittadinanza e di avere i diritti è completamente stravolto oggi. Che cosa tocca a noi? Lui ci ha lanciato un sasso quando ha parlato del riferimento a Ottava. Come ti difendi da un processo in cui è il capitale finanziario che utilizza la politica per far sì che la cosa pubblica diventi privata? Attenzione, non è la politica che decide di essere al servizio di, il processo è esattamente l'incontrario del comando. La finanza decide di utilizzare la politica in quanto tale, cioè i partiti e le amministrazioni, affinché possano far diventare privato ciò che è pubblico. Vi faccio un esempio, così banale, di come anche quello che apparentemente è pubblico in realtà è sottomesso al privato. Se voi camminate nel parco, non parco, insomma, nel verde che hanno fatto all'interno di City Life, tra il centro commerciale e i Casermoni, oppure camminate nel bosco degli alberi e intorno avete le nuove realizzazioni verticali, non a caso la città diventa verticale, è una metafora gerarchica, non avrete la percezione di dove state camminando, cioè vedrete non la interezza della, non riuscite a percepire il parco, ma solamente dei piccoli frammenti, perché è stato disegnato, queste due aree verdi sono state disegnate in modo che la percezione della loro totalità, quindi anche l'aspetto estetico bello del vedere, è fatto per essere visto dall'alto, cioè da chi abita nei grattacieli e nei piani alti dei casermoni. Vi faccio sorridere, questi casermoni sono costruiti con la tecnica dell'assemblaggio, travi d'acciaio, cartongesso, pannelli prefabbricati con dentro già le tecnologie. Nessuno sa questi tipi di nuovi materiali che durata avranno. Se voi parlate con le imprese, danno un periodo minimo e sufficiente, e forse anche bastante, di 10 anni. Dopodiché la casa che tu hai pagato in quelle zone, un range dagli 8 a 12 mila euro al metro quadrato, semplicemente si disfa all'americana. Questo porrà dei problemi, secondo me, molto simpatici. Ben sta. Allora, qual è il punto di vista di classe a questo punto su questa città che è cambiata? Allora, forse è l'esempio Notav è che costringere la finanza, i fondi di investimento, i loro operatori sul campo, che sono poi la politica, eccetera, a concedere che parte dei profitti realizzati vengano invece destinati a un uso comune, a un bene comune, in servizi, ad esempio, o nella abitabilità del patrimonio edilizio ancora residuale di un certo tipo, o in strumenti che aiutano il reddito, ormai non si parla più di salario, ma di reddito, avviene unicamente se c'è il conflitto sociale. Se non c'è il conflitto sociale non si attiva il riformismo, che a sua volta poi costituirà ulteriori ristrutturazioni e razionalizzazione capitale. Ma senza conflitto sociale non si ottiene nulla. A me fanno un po' tristezza i comitati civici che si battono. Ho fatto l'ultima assemblea per l'amministrazione, che sarà in preparazione ad aprile sotto Palazzo Marino, a grido di cattivi cattivi eccetera, perché se è il minimo sindacale dovuto d'ufficio, non è però ancora una fase superiore. Ripeto, o si ripristina una fase di conflitto sociale e allora il viene riattivato il riformismo e quindi una parte dei profitti, ripeto e qui finisco, viene utilizzata per forme di difesa del reddito, quindi di welfare, abitativo, salariale, eccetera, eccetera, trasporti, bla bla bla, oppure questo modello universale di città che è Milano rimane in piedi e dovremo ragionare in altri termini su territori sicuramente più vasti. L'esempio poi, e davvero chiudo, della narrazione concreta che è stata fatta, quello è corrotto, quello c'ha i parenti, quell'altro fa la regina ad uso, è semplicemente la declinazione barbarica, molto italiana, dell'ordoliberismo, cioè del capitalismo che non ha, che come regola ha quella di non avere le regole. L'ordoliberismo, come fase ultima del neoliberismo, è quello che il presidente Trump e la Meloni, per fare i due estremi, non sono sulla stessa scala, ma eccetera, stanno ponendo. L'ordoliberismo non è una novità di adesso, ma è un ragionamento che nasce a metà degli anni 30, ma questa è un'altra storia del capitalismo. L'invito è ragioniamo in termini di scontro di classe per riprenderci e sottrarre, cioè profitto. Solo un commento, questo è il bosco, tu hai parlato della biblioteca degli alberi, è questa qua, alla documentazione risulta che sono 44 gli alberi, una bibliotechina insomma. Dopo. Possiamo... Quando si parla di cambiamento sociale, indubbiamente è vero, bisogna anche da un punto di vista proletario, cioè sottolineare come questo è avvenuto nei quartieri proletari soprattutto, questa gentrificazione, no? Io, per esempio, abito vicino a Lambrate, dove c'erano fabbriche innocenti, Faema, era un quartiere operaio, e adesso ci stanno costruendo a manetta su queste aree ex industriali. Chi ci viene ad abitare suppongo che siano questi che hanno la possibilità di pagare. E questo vuol dire che si è, diciamo, distrutta quella che era delle forme di vita, una solidarietà anche che si costruiva nei quartieri, una capacità anche di fare cultura proletaria, no? Come si diceva una volta, anche se il termine magari andrebbe rivisto. Come nella situazione attuale, quello che invece si verifica è che viene oggi chiamato problema delle periferie, cioè quella che viene classificata come emarginazione, come anche delinquenza, e come questi giovani delle periferie sono dediti alla droga, eccetera, eccetera. Siccome si è parlato di rami, possiamo vedere che al Corvetto, per esempio, non è proprio così, cioè si è creata una solidarietà attorno a questa uccisione che c'è stata di rami. Quindi il problema, il cosiddetto problema delle periferie, va inquadrato in una nuova forma di proletariato precario che sta nascendo. Per esempio, mi riferisco al libro di Bugliari Goggia, che parla delle banlieue parigine. Lui sottolinea molto questo aspetto di nuova solidarietà che si crea nelle fasce giovanili dei quartieri periferici, come nelle banlieue parigine. Certamente siamo a un livello molto più avanzato rispetto a questo, e che solo, diciamo, mediaticamente viene definito come questione di razza, cioè di solidarietà fra etnie, eccetera, no? Comunitarie. In realtà l'autore dice che sì, esiste il problema certamente della razza, ma nel senso di identità. Però soprattutto esiste, secondo lui, queste nuove forme di solidarietà che dipendono da una questione di classe, cioè da un riconoscimento di se stessi come comunque lavoratori precari, senza futuro, emarginati, eccetera, no? È un argomento da approfondire, comunque lo pongo come un problema da vedere. Beh, io, seguendo l'auspicio, diciamo così, o la speranza, spero di no, che a Milano diventi, si possa costruire un movimento come la NOTAV, beh, intanto colgo l'occasione per informare che previa una discussione, un dibattito tra vari comitati, organizzazioni sociali, studentesche, sindacali e politiche, in quest'ultimo mese e mezzo si è creato una sorta di coordinamento che, per esempio, lunedì sera alle 5 sotto Palazzo Marino farà una manifestazione sul contro Milano, insomma, no? È ovvio che questo tipo di iniziative sono solo allo stato, diciamo, embrionale, perché, condividendo l'intervento, un paio di interventi che mi hanno preceduto, cioè una rivolta sociale rispetto a quello che è stato descritto e ampiamente documentato anche nel libro di Barbaceto, si costruisce nei luoghi dove risiedono quei settori ancora esistenti, popolari, che sono fatti di migranti, tipo il corvetto, perché una buona parte del corvetto è costituito da popolazione migrante. E nei quartieri, li citavi, quelli costruiti negli anni 50-60, che è vero, hanno cambiato forma anche nella costituzione sociale, ma non in maniera stravolgente. Abitano ancora probabilmente anche i figli degli operai, eccetera, come sei stato tu d'altra parte. Allora, con queste modalità che si può costruire, in questo senso unisco l'auspicio, però è un impegno alla costruzione di qualcosa che possa fare prima ad Argine e poi costruire un'altra Milano. Sì. Allora, i vostri interventi mi hanno sollecitato alcune cose. Un pensiero sulla narrazione. La narrazione è importante, no? La citavi tu. Non dobbiamo mai sottovalutare il potere del linguaggio. Il potere è anche linguaggio, e attraverso il linguaggio ci colonizza le anime. A Milano è stata costruita, a partire da Expo, una narrativa farlocca della Milano Place to Be, che il primo capitolo di sto libro lo dedico proprio a Expo per smontare questa cosa. E questa narrazione, questo storytelling, come si dice, è tutt'uno con il modello Milano, cioè non è altro, non è una maniera per raccontare il modello Milano, è il modo con cui il linguaggio si è impossessato delle anime, delle teste della gente, facendo credere che a Milano si stava benissimo, no? Da un paio d'anni si è sfarinato questo modello, perché poi alla fine le contraddizioni sociali smontano anche il linguaggio. Però no, quando tu chiami rigenerazione urbana, no? La rigenerazione è di per sé bella, no? Cioè tu rigeneri, è un imbroglio, c'è un'impostura del linguaggio che ci ha dominato da Expo ad oggi, e che io ho cercato di smontare già ai tempi di Expo, devo dire, ma guardato con sufficienza da quasi tutti, dicevano: ma come, a Milano si sta bene, avete l'aperitivo, il metro funziona, cioè perché vi lamentate, Milano è bellissimo. No, c'è un'impostura del linguaggio che va smontata, che è entrata in crisi e che quindi adesso, diciamo, è più semplice. Da un paio d'anni a questa parte, appunto, le contraddizioni hanno riattivato il conflitto. Però il conflitto deve essere, io non so, mi è sembrato di sentire degli accenni critici nei confronti dei comitati, dei vari comitati che ci sono a Milano. Io non sono d'accordo, io penso che, diciamo, i cittadini che si mettono insieme hanno tantissimi difetti, a volte sono insopportabili anche, no, certe persone di questi comitati, però a loro modo esprimono, portano, rendono materiale forme di conflitto. E quindi semmai il problema è fare rete tra vari tipi e vari gradi e vari livelli di coscienza e di conflitto, no? Ma non pensare che c'è che ci sono gli studenti da una parte, i centri sociali dall'altra e poi sti comitati dei cittadini. No, dobbiamo fare rete, mettere insieme tutti. Soltanto facendo rete, mettendo insieme anche cose oggettivamente diverse, possiamo fare un salto di qualità. Perché se c'è un momento in cui è possibile è questo. Perché, ripeto, la narrazione si è sfaldata e quindi è possibile in qualche modo fare un salto di qualità. Sulla magistratura, la magistratura fa il suo mestiere, che è soltanto la part d'instruens, cioè trovano dei reati, quando li trovano, quando riescono, quando glieli lasciano anche trovare, no? E cercano di fare dei processi ed eventualmente delle condanne, se ci riusciranno, perché nel frattempo di solito cambiano le leggi e quindi diciamo, da quando parte l'inchiesta a quando arriva la fine del processo la legge è già cambiata e quindi ci saranno le assoluzioni o le prescrizioni eccetera. Però la magistratura fa il suo mestiere, che è quella roba lì, e può fare solo quello. È la politica e sono i cittadini che possono fare la differenza. È come, esattamente come con Mani Pulite. No? I Mani Pulite, quando il sistema della corruzione della Prima Repubblica era arrivato già ad essere ingovernabile, perché ormai c'erano una serie di norme che impedivano, per esempio entrando in Europa, che impedivano mandare avanti la spesa pubblica in eterno, no? Quindi non c'erano più i soldi per pagare il sistema delle tangenti della Prima Repubblica. A quel punto lì il sistema si è rotto, la magistratura è riuscita a fare il suo lavoro e a individuare una serie di reati. Dopodiché però, se non c'è la politica, se non ci sono i cittadini, arriva un Berlusconi e chiude la finestra, è finita lì. E qui così, tra due anni, quando andremo a votare, arriverà un fascistello a sostituire il manager Sala. E non so se sarà peggio o meglio, sarà uguale probabilmente, ma è la politica. Cioè, se noi non costruiamo politica, la magistratura fa quello che è il suo mestiere, ma non possiamo pensare che la magistratura si sostituisca alla politica e ai cittadini. Quando pensavo, in tutto ciò c'è da aggiungere la questione dello stadio. La questione dello stadio di San Siro, secondo me può diventare davvero un grosso momento anche di mobilitazione. Cioè bisogna impedire che costruiscano il nuovo stadio, bisogna occupare quell'area e impedire che facciano una cosa che, con la scusa del nuovo stadio, che potrebbe benissimo essere ristrutturato il Meazza, è finita lì, no? Allora il problema non è il Meazza, non è lo stadio, il problema è un'operazione immobiliare fatta di grattacieli, il più grande centro commerciale urbano d'Italia, un hotel, una torre a uffici, che sono la verità dell'operazione San Siro, non è lo stadio. Lì è un'operazione di modello immobiliare, punto. Allora, bisogna bloccarlo, cioè bisogna trovare un punto dove un movimento si può costruire e può bloccare l'ingranaggio di questo modello di sviluppo. Poi cosa succederà lo vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Sono le 8. Se nessuno ha altro da dire, possiamo chiuderla lì. Comprate il libro, devo fare lo spot pubblicitario. No, il libro è utilissimo, chiarissimo per spiegare questo. Fa un po' male, però. Vabbè. Dai, grazie mille. Grazie a voi, grazie.